Nelle sue più intime meditazioni era stata abitudine inveterata della mente di Mr. Balstrow rivestire i suoi terrori più egoistici di riferimento dottrinali a scopi sovramani. Ma anche quando parliamo e meditiamo sull'orbita della Terra e sul sistema solare, ciò che sentiamo e a cui adeguiamo i nostri movimenti sono la Terra stabile e il giorno mutevole. E ora, all'interno di tutta la successione meccanica di frasi teoriche, c'era, distinta e profonda come il brivido del dolore della febbre che sopraggiunge quando stiamo discutendo del dolore in astratto, la previsione della vergogna alla presenza del suo prossimo e di sua moglie. Perché il dolore, come la valutazione pubblica della vergogna, dipendono da quanto si è professato in precedenza. Per uomini che mirano solo a sfuggire l'accusa, nulla che non sia il banco degli imputati è una vergogna. Ma Mr. Bulstrode aveva mirato ad essere un eminente cristiano. Non era più tardi delle 7:30 del mattino quando si recò nuovamente a Stone Court. Il bel palazzo antico non era mai apparso più simile a un'incantevole dimora che in quel momento. I grandi gigli bianchi erano in fiore, i nasturzi, le graziose foglie, tutte inargentate di rugiada, scavalcavano il basso muro di pietra. Gli stessi rumori tutto intorno emanavano un senso di pace. Ma tutto, per il proprietario, era guastato mentre camminava sulla ghiaia davanti e attendeva che Mr. Raffles, col quale era condannato a fare colazione, scendesse. Non passò molto tempo e si trovarono seduti assieme nel salotto rivestito di pannelli di legno, davanti al tè e al pane tostato, che era quanto Raffles gradiva prendere a quell'ora del mattino. La differenza fra il suo io della mattina e quello della sera non era grande come il suo compagno si era immaginato. Il piacere di tormentare forse era anche più forte, perché le sue condizioni di spirito erano meno acute. Certo, le sue maniere sembravano più sgradevoli alla luce del mattino. Siccome ho poco tempo da perdere, Mr. Raffles, disse il banchiere, il quale a malapena sorseggiò il tè e ruppe il pane tostato senza mangiarlo, vi sarò obbligato se mi direte subito il motivo per cui desideravate incontrarmi. Suppongo che abbiate una casa altrove e che sarete felici di tornarvi. Ma come? Se uno ha a cuore, non vuole vedere un vecchio amico, Nick? Devo chiamarti Nick. Ti chiamavamo sempre giovane Nick quando sapevamo che intendevi sposare la vecchia vedova. Certuni dicevano che assomigliavi moltissimo al vecchio Nick, ma quella era colpa di tua madre, che ti aveva chiamato Nicholas. Non sei felice di rivedermi? Mi aspettavo un invito a fermarmi con te in qualche posto carino. La mia casa è andata all'aria ora che mia moglie è morta. Non sono particolarmente attaccato a nessun posto. Mi andrebbe benissimo stabilirmi qui come da qualsiasi altra parte. Posso chiedervi perché siete tornato dall'America? Io pensavo che il forte desiderio che avevate espresso di andare, quando vi fosse stata fornita una somma adeguata, equivalesse a un impegno a restarci per tutta la vita. Mai saputo che il desiderio di andare in un posto fosse la stessa cosa che desiderare di restarci. Ma ci sono stato circa 10 anni, non mi si addiceva restarci di più e non ho intenzione di tornarci, Nick. A quel punto Mr. Raffles strizzò lentamente l'occhio mentre guardava Mr. Bulstrode. Desiderate sistemarvi in qualche lavoro? Qual è la vostra attività ora? Grazie, è la mia attività di divertirmi più che posso. Non me ne importa più di lavorare. Se facessi qualcosa sarebbe qualche viaggio per il commercio del tabacco o qualcosa di quel genere che porta uno a stare in gradevole compagnia. Ma non senza un'indipendenza in cui trovare rifugio. Ecco cosa voglio. Non sono forte com'ero, sebbene abbia più colorito di te. Voglio essere indipendente. Questa indipendenza vi si potrebbe dare se vi impegnaste a tenervi alla larga, disse Mr. Bulstrode, forse con una punta di impazienza di troppo nel suo tono sommesso. Questo deve essere come garba al mio comodo, disse Raffles con freddezza. Non vedo per quale ragione non dovrei fare qualche conoscenza nei dintorni. Non mi vergogno di me stesso quale compagno di chicché sia. Ho lasciato la mia valigia alla barriera della strada quando sono sceso. Cambio di biancheria, sincero, sul mio onore. Più sparati e polsini. E con questo vestito di lutto, bretelle e tutto, ti farei onore fra i nobili di queste parti. Mr. Raffles aveva spinto via la sedia e si guardava in particolare le bretelle. La sua intenzione principale era di irritare Bulstrode, ma in realtà pensava che ora il sospetto avrebbe prodotto un buon effetto e che non era solo bello e spiritoso, ma era vestito a lutto in un modo che sottintendeva una parentela solida. Se intendete contare in qualche modo su di me, Mr. Raffles, disse Bulstrode dopo un attimo di silenzio, dovrete aspettarvi di esaudire i miei desideri. Ah, certamente, disse Raffles con beffarda cordialità. Non l'ho fatto sempre? Signore, voi avete fatto di me una persona a modo e io ho ottenuto ben poco. Da allora ci ho pensato spesso. Avrei fatto meglio dire alla vecchia che avevo trovato sua figlia e suo nipote. Sarebbe stato più consono ai miei sentimenti. Ho il cuore tenero. Ma tu hai seppellito la vecchia ormai, suppongo. Adesso per lei è tutt'uno. E hai fatto fortuna in quell'attività profittevole su cui c'era una tale benedizione. Ti sei messo a fare il nobile, a comprare terra, a fare il pascià di campagna. Ancora nelle attività dei dissenzienti, eh? Ancora religioso? O ti sei dato alla chiesa ufficiale perché è più raffinato? Questa volta il lento occhiolino e la leggera prominenza della lingua di Mr. Raffles era peggio di un incubo, perché comunicavano la certezza di non essere un incubo, ma un tormento reale. Mr. Bastrow provò un fremente senso di nausea e non parlò. Ma stava considerando attentamente se non dovesse lasciar fare a Raffles quello che voleva e semplicemente sfidarlo come diffamatore. L'uomo ben presto si sarebbe mostrato abbastanza screditato da indurre la gente a non credergli. Ma non quando racconto una brutta verità su di te, disse la coscienza perspicace. E poi non sembrava sbagliato tenere Raffles a distanza, ma Mr. Bastrow rifuggiva dalla menzogna diretta di negare le affermazioni fondate. Una cosa era ricordarsi dei peccati perdonati, anzi spiegare un discutibile conformismo dei costumi rilassati, e un'altra adattarsi deliberatamente alla necessità della menzogna. Ma dato che Balstrow non parlava, Raffles proseguì allo scopo di sfruttare il tempo al massimo. Io non ho avuto quella bella fortuna che hai avuto tu per Giove. Le cose mi sono andate maledettamente male a New York. Quegli Yankee sono gente che ci sa fare e un uomo dei sentimenti signorili non ha una possibilità con loro. Quando sono tornato mi sono sposato, una donna carina che commerciava nel tabacco. Mi voleva molto bene, ma il commercio era scarso, come diciamo. Era stata sistemata da molti anni da un amico, ma in questo caso c'era un figlio di troppo. Josh e io non ci siamo mai capiti. Comunque ho sfruttato al massimo la posizione e ho sempre bevuto il mio bicchiere in buona compagnia. Ho sempre fatto le cose senza nascondere niente. Sono limpido come il giorno. Non me ne vorrai se non ti sono venuta a trovare prima. Ho una malattia che mi rende un po' lento. Credevo che stessi ancora commerciando e pregando a Londra. E là non ti ho trovato. Ma vedi che sono stato guidato da te, Nick. Forse una benedizione per tutti e due. Mr. Raffles concluse tirando giocosamente su col naso. Nessun altro sentiva il proprio intelletto maggiormente superiore all'ipocrisia religiosa, e se l'astuzia che erige i suoi calcoli, i suoi sentimenti più meschini degli uomini si potesse chiamare intelletto, lui ne aveva la sua parte, perché sotto l'impulsivo tono motteggiatore con cui parlava con Balstrow vi era un'evidente scelta di affermazioni, come se fossero state tante mosse agli scacchi. Frattanto Balstrow aveva deciso la propria mossa e disse con maggiore risolutezza: Farete bene a riflettere. Mr. Raffles, che è possibile che un uomo fallisca per voler fare troppo il furbo nel tentativo di assicurarsi i vantaggi indebiti. Sebbene io non sia in alcun modo legato a voi, sono disposta a corrispondervi una pensione regolare, in pagamenti trimestrali, finché manterrete la promessa di restare alla larga da questa zona. Sta a voi decidere. Se insistete a restare qui, anche per breve tempo, non otterrete niente da me. Mi rifiuterò di conoscervi. Fece Raffles sbottando in modo affettato. Questo mi fa venire in mente un buffo tipo di ladro che si rifiutava di riconoscere il poliziotto. Le vostre allusioni sono sprecate per me, signore, disse Balstrode incandescente. La legge non ha nulla da pretendere da me, né tramite voi, né tramite nessun altro. Non riesce a capire uno scherzo, mio caro amico. Volevo solo dire che io non mi sarei mai rifiutato di conoscerti, ma siamo seri. Il tuo pagamento trimestrale proprio non mi soddisfa. Mi piace la mia libertà. A questo punto Raffles si alzò e misurò per un paio di volte a larghi passi la stanza, dondolando la gamba e assumendo un'aria di magistrale meditazione. Infine si fermò di fronte a Balstrow e disse: Sai cosa ti dico? Dammi un paio di centinaia di sterline. Andiamo, non cifra modesta, e me ne andrò sul mio onore. Raccolgo la mia valigia. E me ne vado. Ma non rinuncerò alla mia libertà per una sporca pensione. Andrò e verrò dove mi garba. Forse mi potrà andare di starmene lontano e scrivere a un amico, forse no. Non hai soldi con te? No, ne ho 100. disse Balstrow, pensando che l'immediata liberazione era un sollievo troppo grande da rifiutare a motivo di future incertezze. Vi farò avere le altre se mi darete un indirizzo. No, aspetterò qui finché non me le porterai, disse Raffles. Farò quattro passi, farò uno spuntino e tu sarai di ritorno per allora. Il corpo malaticcio di Mircea Bulstrode, a pezzi per l'agitazione in cui si trovava dalla sera precedente, lo fece sentire vilmente in potere di quest'uomo volgare e invulnerabile. In quel momento afferrò l'occasione di una temporanea tranquillità a qualsiasi condizione. Si stava alzando per eseguire ciò che le aveva suggerito Raffles quando quest'ultimo, sollevando il dito come ricordandosi improvvisamente di qualcosa, disse: «Effettivamente ho cercato ancora, Sara. Anche se non te l'ho detto. Provavo tenerezza per quella giovane carina. Non l'ho trovata, ma ho scoperto il nome del marito e me lo sono annotato. Ma accidenti, ho perso il mio taccuino. Però se lo sentissi, lo riconoscerei. Ho le mie facoltà mentali come se fossi nel fiore degli anni, ma i nomi mi sfuggono per Giove. Delle volte non sono meglio di una maledetta cartella delle tasse prima che sia riempita di nomi. Comunque, se hai notizie di lei e della sua famiglia, te lo farò sapere, Nick. Ti piacerebbe fare qualcosa per lei adesso che è la tua figliastra? Senza dubbio, disse Mr. Bulstrode col consueto sguardo fermo dei suoi occhi grigio chiari, per quanto questo potrebbe ridurre la mia capacità di assistervi. Mentre usciva dalla stanza, Raffles fece lentamente l'occhiolino alle sue spalle e poi tornò verso la finestra ad osservare il banchiere che si allontanava a cavallo, virtualmente su suo ordine. Le labbra dapprima gli si curvarono in un sorriso e poi si aprirono in una breve risata trionfante. Ma come diavolo era il nome? Egli si chiese ben presto, per metà ad alta voce, grattandosi il capo e increspando la fronte orizzontalmente. In realtà non si era preoccupato di questa dimenticanza, né ci aveva pensato finché non gli era venuta in mente, alla scoperta di motivi per irritare Balstrow. Cominciava per L. Erano quasi tutte L, mi pare. Egli proseguì con la sensazione di giungere ad afferrare quel nome sfuggente. Ma la presa era troppo labile e ben presto si stancò di questo inseguimento mentale. Infatti, pochi uomini erano maggiormente insofferenti di occupazioni private o maggiormente bisognosi di farsi continuamente dire di Mr. Raffles. Preferì sfruttare il tempo in piacevole conversazione con l'amministratore e la domestica, dai quali venne a sapere quanto desiderava sulla posizione di Mr. Balstrow a Middlemarch. Alla fine, tuttavia, ci fu un intervallo monotono che fu necessario riempire con pane, formaggio e birra, e mentre era seduto solo, con queste vivande nel salotto tappezzato di pannelli di legno, all'improvviso si diede un colpo sul ginocchio ed esclamò: «Ladislav!» Quell'azione della memoria che aveva cercato di mettere in moto e che, persa la speranza, aveva abbandonato, si era improvvisamente compiuta senza alcuno sforzo consapevole. Un'esperienza comune, gradevole come uno starnuto portato a termine, anche se il nome ricordato non riveste alcun valore. Raffles estrasse immediatamente il proprio taccuino e scrisse il nome, non perché si aspettasse di servirsene, ma semplicemente per non restare senza sapere cosa fare se mai si fosse presentato il caso di averne bisogno. Non aveva intenzione di comunicarlo a Bulstrode, non gliene veniva alcuna effettiva utilità a dirglielo, e per una mente come quella di Mr. Raffles c'era sempre la probabilità di trarre profitto da un segreto. Fu soddisfatto del suo attuale successo e alle 3 di quel giorno aveva raccolto la sua valigia alla barriera ed era salito in carrozza liberando gli occhi di Mr. Bulstrode da una brutta macchia nera sul paesaggio di Stonecourt. Ma non liberandolo dal timore che la macchia nera potesse ricomparire e divenire inseparabile persino dalla vista del suo focolare. Libro 6. La vedova e la moglie. Capitolo 54. In quella deliziosa mattina, in cui i mucchi di fieno a Stonecourt permeavano l'aria del loro profumo, come se Mr. Raffles fosse stato ospite degno di migliore incenso, Dorothea si era di nuovo installata a Lowick Manor. Dopo 3 mesi, Freshitt era divenuto piuttosto opprimente. Posare come una modella per Santa Caterina, guardando estasiata il bambino di Celia, per molte ore al giorno non serviva a nulla E restare alla presenza di quell'eccezionale infante con insistente noncuranza era una condotta che non sarebbe stata tollerata in una sorella senza figli. Dorothea sarebbe stata in grado di portare il bambino con gioia per un miglio se ce ne fosse stato bisogno e di amarlo ancor più teneramente per quella fatica. Ma per una zia che non riconosce nel nipote in fasce un Buddha e non ha nulla da fare per lui se non ammirarlo, il comportamento di questi è soggetto ad apparire monotono e l'interesse nell'osservarlo può esaurirsi. Questa possibilità era del tutto impensabile per Celia, la quale credeva che la vedovanza senza figli di Dorothea era coincisa assai a proposito con la nascita del piccolo Arthur. Al bambino era stato messo il nome di Mr. Brooke. Dodo è proprio la persona a cui non importa di avere nulla di suo, bambini o altro, disse Celia al marito. E se avesse avuto un figlio, non avrebbe potuto essere una gioia come Arthur, non vi pare, James? Se fosse stato come Kesa, boh, no. Disse Sir James, consapevole di dare una risposta un po' indiretta e di intrattenere un'opinione strettamente personale riguardo alle perfezioni del primogenito. No, ve lo immaginate? Veramente è stata una fortuna, disse Celia, e penso che per Dodo sia molto carino essere vedova. Può voler bene al nostro bambino proprio come se fosse il suo e può avere tutte le idee che le passano per la testa. È un peccato che non sia stata una regina, disse il devoto Sir James. Ma allora cosa saremmo stati noi? Avremmo dovuto essere qualcos'altro, disse Celia, ribellandosi a un volo così faticoso della fantasia. Mi piace di più così com'è. Quindi, quando si accorse che Dorothea stava facendo i preparativi per la sua partenza definitiva per Lowick, Celia alzò le sopracciglia per la delusione e, nel suo modo tranquillo, privo di enfasi, lanciò una frecciata di sarcasmo. Cosa farai a Lowick, Dodo? Lo dici tu stessa che là non c'è niente da fare. Tutti sono così puliti e benestanti che ti fa venire proprio la malinconia. E qui sei stata così contenta di girare per tutta Tipton assieme a Mr. Garth fino nei cortili peggiori. E adesso che lo zio è all'estero, tu e Mr. Garth potete fare tutto quello che vi pare e sono certa che James fa tutto quello che gli dici. Verrò spesso qui e vedrò ancora meglio come crescere il bambino, disse Dorothea. Ma non lo vedrai mai mentre fa il bagnetto, disse Celia. E quella è proprio la parte migliore della giornata. Stava quasi per imbronciarsi, le sembrava davvero assai crudele da parte di Dodo allontanarsi dal bambino quando avrebbe potuto restare. Cara Kitty, verrò e resterò apposta tutta la notte, disse Dorothea, ma adesso voglio stare sola in casa mia. Voglio conoscere meglio i Fairbrother e parlare con Mr. Fairbrother di ciò che bisogna fare a Middlemarch. La naturale forza di volontà di Dorothea non era più tutta trasformata in una risoluta sottomissione. Aveva una gran voglia di essere a Lowick ed era semplicemente decisa ad andarci senza sentirsi obbligata a dire tutte le proprie ragioni. Ma tutti coloro che la circondavano la disapprovavano. Sir James era assai addolorato e propose che emigrassero tutti a Cheltenham per alcuni mesi con l'arca santa, altrimenti detta culla. A quel tempo uno non sapeva proprio cosa proporre se Cheltenham veniva scartata. La vecchia Lady Chatham, appena tornata da una visita alla figliola a Londra, voleva perlomeno che si scrivesse a Mrs. Vigo e la si invitasse ad accettare le mansioni di compagna di Mrs. Casabo. Non era concepibile che una giovane vedova come Dorothea pensasse di vivere da sola nella casa di Lowick. Mrs. Vigo era stata lettrice e segretaria di personalità reali e quanto a nozioni e sentimenti, persino Dorothea non avrebbe potuto avere nulla da obiettare. Mrs. Cadwallader disse in confidenza: Certamente impazzirete in quella casa, mia cara. Avrete delle visioni. Tutti dobbiamo sforzarci un poco per mantenerci sani di mente e chiamare le cose con lo stesso nome con cui le chiamano gli altri. Certo, per i figli più giovani e le donne senza soldi, impazzire è una sorta di misura precauzionale. Allora la gente si prende cura di loro. Ma voi non dovete incorrere in questo. Suppongo che siate un po' stufa qui della nostra buona vecchia Lady Chatham. Ma pensate che rompiscatole potreste diventare voi stessa per il vostro prossimo se sosteneste sempre il ruolo della regina della tragedia e prendeste le cose in modo sublime. A star seduto da sola in quella biblioteca Lowick, può darsi che vi capiti di immaginare di dominare il tempo. Dovete circondarvi di alcune persone che non vi crederebbero se glielo diceste. Questa è una buona medicina calmante. Non ho mai chiamato le cose con lo stesso nome con cui le chiamava la gente attorno a me, disse Dorothea con fermezza. Ma suppongo che vi siate resa conto del vostro sbaglio, mia cara, disse Mrs. Cadwallader, e questa è una prova di sanità mentale. Dorothea avvertì il pungiglione, ma non le fece male. No, disse, Penso ancora che la maggior parte del mondo si sbagli su molte cose. Certo che uno può essere sano di mente eppure pensarla a questo modo, dato che la maggior parte del mondo spesso ha dovuto cambiare opinione. Mrs. Cadwallader non tornò più su questo argomento con Dorothea, ma rivolta al marito osservò: Sarà bene che si risposi appena sarà il momento opportuno, se uno potesse introdurla fra la gente giusta. Naturalmente i Chatham non vorrebbero, ma io capisco chiaramente che un marito è la cosa migliore per farla girare dritto. Se noi non fossimo così poveri, inviterei Lord Triton. Sarà marchese un giorno o l'altro e non si può negare che lei ci farebbe un'ottima figura come marchesa, sempre più bella che mai vestita a lutto. Mia cara Elinor, vi prego, lascia stare quella povera donna. Simili stratagemmi sono inutili, disse il tranquillo pastore. Inutili? Come si combinano i matrimoni se non facendo incontrare uomini e donne? Ed è una vergogna che suo zio sia scappato e abbia chiuso la Grange proprio adesso. Bisognerebbe invitare a Freshit e alla Grange un sacco di buoni partiti. Lord Triton è precisamente l'uomo adatto, pieno di progetti per rendere felice la gente in modo sciocco. Quello sarebbe proprio adatto a Mrs. Casebo. Elinor, lascia che Mrs. Casebo scelga da sé. Sono stupidaggini quelle che dite voi saggi. Come può fare a scegliere se non c'è varietà tra cui scegliere? La scelta di una donna di solito significa prendere l'unico uomo che può accalappiare. Fate attenzione alle mie parole, Humphrey. Se i suoi amici non si danno da fare, ci sarà ancora una storia peggiore di quella di Casebo. Per amor del cielo, non toccate quell'argomento, Elinor. È un punto assai dolente per Sir James. Sarebbe profondamente offeso se tu ne parlassi in sua presenza senza necessità. Io non ne ho mai parlato, disse Mrs. Cadwallader allargando le mani. Celia mi ha detto tutto sul testamento in principio, senza che io le chiedessi niente. Sì, ma vogliono che la cosa sia messa a tacere. Mi pare di aver sentito dire che il giovanotto se ne andrà dalla città. Mrs. Cadwallader non disse niente, ma fece al marito tre cenni significativi col capo, con un'espressione assai sarcastica negli occhi scuri. Dorothea persistette tranquillamente, a dispetto di rimostranze e tentativi di persuasione. Così, entro la fine di giugno, a Lowick Manor le persiane furono tutte aperte e il mattino occhieggiò tranquillo nella biblioteca, brillando sulle file di taccuini come brilla sul faticoso deserto pieno di enormi pietre, muto ricordo di una fede dimenticata. E la sera, colma di rose, penetrò silenziosamente nel boudoir verde-azzurro dove Dorothea preferiva sedere più spesso. Dapprima entrò in ogni stanza, interrogando i 18 mesi della sua vita matrimoniale e procedendo nei propri pensieri come se fossero un discorso che il marito doveva ascoltare. Poi si soffermò nella biblioteca e non fu tranquilla finché non ebbe allineato con cura tutti i taccuini, come immaginava che egli avrebbe desiderato vederli. La compassione che l'aveva irresistibilmente frenata nella sua vita con lui perdurava ancora attorno alla sua immagine, anche quando protestava con lui con pensieri indignati e gli diceva che era ingiusto. Si potrà forse sorridere come segno di superstizione, solo di un piccolo atto. Chiuse con cura in una busta e sigillò la tavola sinottica ad uso di Mrs. Casebo, scrivendo all'interno della busta: Non potrei usarla. Non capisci ora che non potrei sottomettere la mia anima alla tua, lavorando invano ad un'opera in cui non credo? Dorothea. Poi depose l'incartamento nel suo scrittoio.